Matteo Pellitti, Quattro passi nell'ininfluente. Ragiono nei giorni sul concetto di ininfluenza. Senza nessun legame con gli allarmi stagionali virali, solo perché mi rigira in mente l'espressione quattro passi nell'ininfluente. Probabili suoni rimasti impigliati in me da un titolo estivo di Mauro, Passi da gigante nell'ininfluente. Il timore di diventare ininfluenti vorrà pur dire qualcosa. E verso chi? E verso cosa? In quanto tempo, mi chiedo. L'influenza è l'approdo voluto temuto, la faticosa conquista che vorrai sempre rimandare, allontanare da te, come si rimandano e allontanano le scelte più necessarie.